GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Questa mattina a Radio 24 un dibattito sull'immigrazione che ha preso spunto dagli scontri dei giorni scorsi in Svezia. Abbiamo sentito il deputato al Parlamento europeo della Lega Speroni, ha detto: in Belgio i bambini sono stati discriminati dai musulmani per il panino al prosciutto, penso che ci sia una difficoltà, una non volontà a integrarsi. Su questo dibattito è intervenuta anche Anna Maria Corazza, che è italiana di origine ma svedese di nazionalità, europarlamentare dunque per la Svezia. Dice: non c'è stata nessuna rivolta, ci sono stati fatti isolati, atti di vandalismo. Sentiamola. Il collega Speroni ha detto una cosa che secondo me è molto grave e che vorrei subito ribattere, che non c'è una volontà di integrarsi e che più si è diversi più si ha difficoltà a integrarsi. Questo è contrario a tutta la storia dell'Europa e alla storia dell'Italia, perché la diversità è una ricchezza, una forza, però va gestita con delle regole chiare e in maniera umana. Questo fatto che adesso l'estrema destra, la Lega e purtroppo i razzisti hanno cominciato a dare la colpa agli immigrati, a quelli che sono diversi, per tutti i mali dell'Italia o dell'Europa, è una cosa gravissima che non è riflettuta nella realtà. Perché, per esempio, in Svezia ci sono tantissimi immigrati che hanno creato società che producono ricchezza, che impiegano svedesi, e così in Italia. Quindi non si può assolutamente stigmatizzare in questo modo il diverso all'immigrato, è una cosa gravissima che è contro i nostri valori. Anna Maria Corazza, lo ricordo, anzi Anna Maria Corazza Bildt, deputata svedese al Parlamento europeo di origine italiana. Cambiamo tema, Bruxelles, la decisione con cui il TAR della Lombardia ha accolto la richiesta del Comune di Milano di sospendere il recupero da parte dello Stato dei 360 milioni di euro di aiuti illeciti ricevuti da SEA Handling non cambia la situazione. Il governo italiano continua a non rispettare la decisione UE del 2012, lo si apprende da fonti UE. Intanto a Bruxelles si valuta la compatibilità del giudizio del TAR con il diritto comunitario. Dopo la decisione della Francia di sospendere dal commercio la pillola Dian-35, anche l'Italia procede alla revisione dei dati sul farmaco incriminato. L'agenzia del farmaco francese ha avviato il processo di sospensione della vendita, che sarà effettivo entro tre mesi. Allora, Euronet Plus ha sentito Ilaria Passarani dell'Organizzazione Europea dei Consumatori, che spiega la valutazione compiuta su questo farmaco dall'Agenzia Europea del Farmaco. La pillola Dian 35 è stata oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco. A seguito di questa valutazione, l'Agenzia ha concluso che i benefici continuano ad essere maggiori dei rischi. Ha però segnalato l'importanza di utilizzare questo prodotto soltanto per acne e non a fini contraccettivi, e ha ricordato come sia importante informare sia i pazienti che i medici riguardo i rischi e i sintomi associati alla trombosi. Ricordiamo quindi a tutti i consumatori che è necessario segnalare tutti gli effetti indesiderati alle autorità competenti, così che possano prendere decisioni informate sulla sicurezza dei farmaci sul mercato. L'Italia ha un anno di tempo per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, prevedere i rimborsi per i detenuti vittime del problema e, aggiunge un comunicato, non può più opporsi in alcun modo alla richiesta che le viene dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché la Corte di Strasburgo ha rigettato il suo appello, confermando il verdetto contro l'Italia che già aveva emesso l'8 gennaio scorso. Bene, con questo è tutto per l'appuntamento con GR Europa, che naturalmente torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.